Had me a girl in San Diego. One day she just had to go. And then I had me a girl in Tallahassee. Boy, what a foxy lassie. And my doctor says I'll be alright, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be alright. Doctor says I'll be alright. Doctor says I'll be alright. Doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And then I had me a girl in Mississippi. Oh, she sure was kippy. Had me a girl from England. She done split for the mainland. And then I had me a girl from New York. Up and pulled my cork, and my doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right. The doctor says I'll be all right. Well, the doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. Doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. Then I had me a girl from North Dakota. She was just filling her quota. Then I had me a girl from Chula Vista. I was in love with a sister. And then I had me a girl from Doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Well, my doctor said I'll be all right, but I'm feeling blue. Then I had me a girl from France. Just wanted to get in her pants. Then I had me a girl from Toledo. Boy, she sure was neato. Had me a girl from North Carolina. She's still on my mind. And my doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right. The doctor says I'll be all right. Well, the doctor says I'll be all right, but I'm feeling. Doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Well, my doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. Well, the doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. doctor says I'll be all right, then I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right, the doctor says I'll be all right. Well, the doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. Il dottore dice che andrà tutto bene, per questo lo dice il dottore, ma lo dice Tom Waits, speriamo che vada così, anche se, come dice lui, mi sento un po' blu, che in caso sarebbe mi sento un po' triste e abbattuto. E proprio di questo argomento e di questo tipo di musica andremo a parlare e ad ascoltare questa sera. Infatti sarà tutta una puntata che verte sul folk, sul cantautorato folk in generale e anche su composizioni solamente musicali. Tom Waits è famosissimo, questo pezzo è tratto da una sorta di antologia che si chiama The Early Years del 91, per cui ancora non aveva questo modo di cantare per il quale adesso è facilmente riconoscibile, abbastanza rock, ma qui cantava più tra virgolette normale, per quanto bene, però il pezzo appunto mi piaceva, è stato un pezzo che ho ascoltato tanto. Successivamente ora vi metto un altro grandissimo e famoso della musica cantautoriale, che si chiama Leonard Cohen. Il pezzo è tratto da Songs of Love and Hate, che è uno degli album più famosi, mi pare il terzo del 71. Si intitola Avalanche. Tra l'altro anche Nick Cave lo ha coverizzato in uno dei suoi primi dischi solisti. Anche qui il testo è molto molto bello. Si parla di un buon uomo paziente e sensibile che è individuato come uno storpio, che a un certo punto della vita si incazza e appunto non lasciarlo incazzare, insomma, diventa abbastanza pesante anche nella sua lucidità e nel sentire le cose come stanno. Per cui ascoltatevelo se trovate il testo, ma comunque ormai online trovate tutto, leggetevelo, che è un testo bellissimo. Tra l'altro appunto anche Leonard Cohen ha scritto dei libri che sono molto belli. Buon ascolto. Step into an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Side by accident, as you go down for your gold, the cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. Thank you. pedestal. You did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. You who wish to conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound. To long for you, I who have no greed. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you've gone away from me, but I can feel you when you breathe. Dress in those rags for me. I know you are not poor, and don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved. It is your flesh that I wear. Proprio no, non siamo in fase allegra e non è una puntata allegra, ma credo sia comunque una bella puntata. E adesso vorrei mettere un folkers italiano invece, che è abbastanza conosciuto soprattutto all'estero, e si chiama Bob Korn, personaggio emiliano, fa tutto da solo. E, tra l'altro anche lui orbitante intorno al locale Barzon Vetch, che ne abbiamo parlato la settimana scorsa in Emilia, e organizzatore lì proprio in quel posto di Musica nelle Valli, che è un bellissimo festival che si tiene ogni anno nel periodo estivo. Il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Everything But Nothing, è tratto da We Don't Need the Outside del 2007, che credo sia il terzo album. She's my sunny day. She's my sadness. She's the ring that closes the chain. She's in my vein. She's cold water in the morning when I went back to drown. And the warm nest in the evening when I stay outside all day long. She's a good car and a good bottle. She keeps alive what's inside. And when she's ready to be open, you can taste her life. You can taste the time. Salt and she's my honey. She's the key of light to pass through. She's a good car and a good bottle. She keeps alive what's inside. And when she's ready to be yours, you can taste. You can taste the time. She's never empty. She's never empty. She's never empty. Nina dell'Accademia della Brusca vi vuole dire qualcosa a riguardo di questo pezzo e del pezzo che c'è dopo in scaletta. Faccio una piccola incursione nella trasmissione in autodate, perché Bob Corne comunque lo conosco, è delle mie parti, come si direbbe, e il suo pezzo Everything But Nothing si potrebbe tradurre in emiliano con un bel tutto e niente. E se ascolta o ascolterà, penso ci si potrebbe ritrovare tranquillamente in questa dicitura. E invece il pezzo successivo, che si chiama Over Jordan del 2001, è di Papa M, un artista che ha tantissimi pseudonimi, lo potremmo ricordare prima di tutto perché è stato componente degli Slint, David Paggio, e è stato anche meno gloriosamente un componente degli Interpol per un paio d'anni, ma soprattutto è questo folk singer molto particolare, appunto Papa M, questo suo nomignolo, diciamo, questo nome d'arte che si è dato. E prima di essere Papa M, dove la M è un elemento ricorrente, è stato Ariel M. Quindi dal 96 al 99 ha tenuto questo suo progetto solista sempre sull'Ethereal, sul folk, però non cantato. Quasi nulla di quello che ha fatto era cantato. Nel 99 poi è diventato da Ariel M, formerly Ariel M, è diventato Papa M. C'è proprio un album che si chiama così, Papa M, formerly Ariel M, Up North Kids Number 2. E questo pezzo appunto è tratto da un disco che si chiama Whatever Mortal del 2001, che è quasi tutto cantato, e secondo me canta pure bene. Thank you. traveling through this town alone. There are no drugs, no fear of danger in that gold land that I call home. I'm coming home to see my father. I'm coming home no more to grieve. I'm coming home just over Jordan. I'm coming home no more to nights, and it won't be long. We all will rise and stand side by side, hand in hand, bound for glory. Our foes will fall to be death's bride. I'm coming home to see my brother. I'm coming home no more to. I'm coming home just over Jordan. I'm coming home to never leave. I'm coming home to see my mother. I'm coming home no more to grieve. I'm coming home just over Jordan. I'm coming home to never. Anche un gruppo che folk non lo era per nulla ha inciso dei brani folk che secondo me sono delle pietre miliari, almeno per quanto riguarda l'Italia. Loro sono i Kina, sono un gruppo ormai storico per la prima ondata dell'hardcore e emocore in Italia, appunto cantato in italiano. Colosso portante della Blue Bass, la storica etichetta appunto sempre degli anni 80. Il pezzo si chiama Questi anni e lo potete trovare in Troppo lontano e altre storie, che è un CD del 96, credo che sia una raccolta di varie cose precedenti che erano uscite in vinile in 7 pollici. Il pezzo scorre insieme a te con delle parole veramente che ti portano a una dimensione che poi è comune a tutto l'essere umano, che è il passare degli anni, la vecchiaia, e la vecchiaia che porta anche saggezza. E ascoltiamocelo. Questo pezzo mi ha sempre ricordato qualcosa dei Current 93, che abbiamo già ascoltato forse un paio di volte durante le trasmissioni. I Current 93 nel loro periodo, nella loro fase più folk. Infatti il brano che andiamo a sentire è un brano storico loro, tra virgolette più pop, si chiama A Sadness Song, che ha anche ispirato la puntata con Ed Meagher, il pezzo che abbiamo sentito in apertura di Tom Waits, tratto da un disco storico che si chiama Thunder Perfect Mind. del 92. In questa versione ce ne sono un paio di versioni dello stesso pezzo, non c'è la voce sua di David Tibbett, ma di Rose McDowell, che è una cantante che ha collaborato con vari gruppi folk e neofolk in quegli anni lì, e anche con qualcuno di sperimentale, di gruppi sperimentali sempre inglesi. Il pezzo è un po' tragico, è veramente triste, perché se ascoltate il testo parla di varie situazioni e gli antipodi di quella situazione, ovvero quando tutte le cose, non, sia belle che brutte, non hanno più senso e diventa tutto uguale, il mondo è come una canzone triste. When we touch the world, c'è Nick Cave che ha scritto un disco che è veramente triste, l'ultimo che è uscito, che si chiama The Skeleton Tree del 2016, quasi tutto rivolto a uno dei suoi figli che è cascato giù da una scogliera di dove vive lui a Brighton, per cui da questa esperienza terribile ha provato anche un po' a uscirne facendo un album che secondo me è tra i più scuri e funerei dell'ultimo periodo, che per me l'ultimo periodo è abbastanza vasto ora non mi ricordo il titolo, vabbè, insomma, da parecchio tempo, da No More Shall We Part in poi, secondo me da dopo quel disco era diventato un pochino più pimpante, e ovviamente gli è successa una cosa terribile come solo a Nick Cave poteva succedere, e, purtroppo, e il pezzo si chiama Magneto. Mostly I never knew which way was out. Once it was on, and that was that. The umbilicus was a faucet that found in rabbit blood, and I spun on my wheel like a laboratory rat. An electrical storm on the bathroom floor, clutching the bowl. My blood was full of gags and other people's diseases. My monstrous little memory, it swallowed me whole. It was the year I officially became the bride of Jesus. In love, you laugh, in love you move, I move, and one more time with feeling. Love you love, I love you love, saw you in half, the stars are splashed across the ceiling. The urge to kill somebody was basically overwhelming. I had such hard blues down there in the supermarket queues. I had a sudden urge to become someone, someone like you, who started out with less than anyone I. In love, I love you love, I love you love, I move you move, and one more time with feeling. I love you love, I'm sawn in half, and all the stars are splashed across the ceiling. shyly, softly to the hold a drink. Come as far as the edge of my blood, then swim. And in the bathroom mirror, I see me vomit in the sink. And all through the house, we hear the hyena's hymns of love. I love you, love, I love you, love, I love you, love. I move, I move, you move, and one more time with feeling. I love you, love, I love you, love. We saw each other in heart, and all the stars are splashed and splattered across the ceiling. Stiamo ascoltando pezzi che riguardano la morte. E continuiamo ancora con un pezzo bellissimo di Amanda Galas, che ha suonato dal vivo e continua a suonare a volte. Io l'ho trovato su Malediction and Prayer, che è un disco suo live del 98. Si chiama Si la Muerte, è cantato in spagnolo. Con il testo, perdonatemi se non lo pronuncio bene, del poeta che si chiama Miguel Jesu Misco, un poeta salvadoregno, narra che non vuole che se la morte arriva in quel momento, lui non è ancora pronto, o lei non è ancora pronta, perché deve fare ancora delle cose, più che altro deve finire anche di farle, come sistemare le questioni con gli amici, avere bisogno di odorare un fiore ancora, preparare le valigie, finire di cucinare, così. E quindi, insomma, è abbastanza straziante. Amanda Galas è una cantautrice anche lei importantissima, che ha iniziato facendo musica sperimentale, soprattutto usando la voce. Non so quante ottave abbia ora, ma prima era quasi assurdo, non mi ricordo quante ottave aveva, però parecchie. Era molto brava, di origine greca, lo è ancora. Vabbè, ho fatto una presentazione un po' così alla cacchio, ma perché mi interessava più il pezzo che il brano che il personaggio, e quindi lo metto. Del cielo de la rosa que no ha sido día desenterrado mis raíces y escrita una carta pendiente que ni siquiera me ha lavado las manos, ni he conocido un ojo, ni he emprendido en caminadas en países desconocidos, ni conozco los siete velos del mar. Canción preferida, ni me he reconciliado con los enemigos. Digo lo que no he probado el suicidio, ni he visto libre mi gente. Ama, ama. Que no es que la tema, pero ni siquiera. Dígale si viene que vuelva mañana. Que no es que la tema, pero ni siquiera. Dígale si viene que vuelva mañana. Que no es que la tema, pero ni siquiera. Dígale si viene que vuelva mañana. Que no es que la tema, pero ni siquiera. Empezaba a andar el camino. Se fían que vuelva mañana, que no es que lo temo, pero ni siquiera. Digo que se viene que vuelva mañana, que no es que lo temo, pero ni siquiera. Digo que se viene que vuelva mañana, que no es que lo temo, pero ni siquiera. Empezar a andar el camino. E su questo pezzo, tra l'altro, come potete sentire dagli applausi dal vivo, dunque confermo che ha 5 ottave di estensione, o le aveva, non lo so, secondo se con la vecchia le ha perse o ne ha acquistato un'altra. E adesso voglio fare pubblicità a un gruppo che si chiamano Gargamella, che mi viene un po' da ridere, che sono fiorentini, no fiorentini, dell'area toscana, un duo acustico e a tratti sperimentale, che ci stava con la trasmissione perché il pezzo in questione è abbastanza, ha a che fare un po' con il lutto anch'esso, con un'atmosfera distesa comunque, su un tappeto di armonium. Si chiama Massacre Game, che loro hanno fatto solo un disco che si chiama Tete Velata in 16 anni, adesso sono arrivati a 20 e devono fare il secondo disco, però hanno lasciato in free download sul Bandcamp questo pezzo un po' per festeggiare in maniera molto piccola il ventennale. Suoneranno A febbraio, in un posto particolare all'isolotto qui a Firenze, in compagnia di Van Vissen, che invece è molto noto nell'ambiente classico. Ha fatto anche un disco insieme a Gene Jarmusch e ha fatto anche la colonna sonora di un film suo, Solo gli amanti sopravvivono. Ma adesso ascoltiamoci Massacre. Thank you. vorrei ricordarvi che Gargamel e Van Vissen Live li ha organizzati Diadrone, che è un'etichetta di Firenze che saluto tanto, e che se non ci fosse Diadrone a Firenze in zona ci sarebbero molte ma molte meno cose belle e interessanti. E continuando sulle cose belle e interessanti, c'è un gruppone storico che parte dagli anni 80 che si chiama Dead Can Dance, e questo pezzo è uno tra i più folk classico che hanno fatto, che si chiama Don't Fade Away, è tratto da un noto live loro che è uscito sia in videocassetta ai tempi che in CD, che si chiama Toward the Within del 94 per la 4AD. E anche questo è abbastanza triste, ci sta con tutta la puntata dal vivo. Don't fade. Transcend. C'erano gli applausi, ma sono stati staccati almeno da questo file. That Can Dance dal vivo con Don't Fade Away, una versione veramente perfetta sia dal punto di vista di chi l'ha suonata, ma anche di chi l'ha cantata, che cioè veramente sembra un pezzo ultra mega prodotto, quando invece sono ultra mega bravi loro. Un altro appunto gruppo di musicisti bravissimi, questa volta italiani, sono i Ronin, uno dei gruppi di Bruno Dorella, che cura le batterie, se si possono chiamare batterie, insomma i ritmi, i campioni negli Ovo, anche nei Bachi da Pietra senza campioni. In questo pezzo che vi metto ci canta Francesca Amati, che è anche lei una cantautrice di Ravenna, loro più o meno sono di quella zona, che tra i vari progetti suona anche dei Comaneci e fa folk. Il brano si chiama Far Out, che è abbastanza conosciuto tra la loro produzione, si trova sia in un disco loro uscito qualche anno prima, che in una raccolta di brani in cui appunto ci canta lei come leitmotiv del disco. Ce l'andiamo subito a ascoltare. For at least a day. E rimanendo un po' su questo tema sonoro di ballads un po' americanigianti, un po' anche da film, un po' da colonna sonora di alcuni tipi di produzioni cinematografiche, ci incastrava, ci metto King Dude, che è un altro folkers americano. Che è un folk, nel senso un altro, perché loro erano italiani. E il pezzo si chiama, è curioso, l'abbiamo ascoltato tanto io e Nare Sheran insieme andando a giro per l'Italia. Si chiama You Can Break My Heart, tratto da Love del 2011. È anche un pochino scherzoso perché appunto dice You Can Break My Heart, but please don't break the rest of me. Che è un po' come dire, insomma, mi hai spezzato il cuore, ma insomma, non mi spaccare anche qualcos'altro. E ci piace tanto. Questa voce supportata da un coro di demoni nel sottofondo. Ci leggo Chelsea Wolfe che ha fatto appunto un paio di EP insieme a King Dude, a volte hanno fatto pure dei concerti insieme. Il pezzo in questione, che trovo tra i più belli di Chelsea Wolfe, anche se non è così famoso, si chiama Fight Like Gods, tratto da Sing Songs Together del 2013. una sorta di lunga marcia funebre, eterea e blues, parecchio toccante, come comunque lei come persona, o almeno come personaggio. Thank you. su questa voce traghettante verso limbi oscuri e mortiferi, vi ricordo un po' di social di Radio Wombat, appunto una radio fiorentina alternativa e secondo me unica nel trattare le cose, i programmi, così come prima c'è stata l'Accademia della Brusca con i loro ragionamenti contorti sulla linguistica a suon di musica trash, ma con un senso. E comunque il sito è wombat.noblogs.org, che appunto, se ci state ascoltando, almeno per ora, vuol dire che lo conoscete. Wombat è sempre con la W. twitter.com/radiowombat, se siete fissati con Twitter. Se siete fissati con Facebook, è facebook.com/radio-wombat-firenze. Ma la cosa più importante rimane e sarà sempre l'indirizzo di posta, nel quale potete scriverci, darci le vostre impressioni, infamarci, dirci di smettere subito, dirci di continuare per sempre e proporci anche cose e proporre anche ai vari programmi qualcosa di diverso che non viene in mente a chi lo fa. Anche a me mi piacerebbe che qualcuno mi scrivesse: fai una puntata su X, che se la conosco riesco a approfondirla, ben venga. Comunque l'indirizzo è postawombat@insiberia.net. C'è il contest per il logo Wombat ancora attivo per la radio e voi non potete capire, però se vincete svoltate la vita e non dico altro. La puntata va quasi sul finire, rimangono quattro pezzi almeno, sì, quattro pezzi più o meno. Vorrei parlarvi, i prossimi due sono, ve li metto a seguito, sono di i due chitarristi di Neurosis che attualmente, anzi da anni, fanno anche carriera solista folk. Il primo che metto è di Scott Kelly, appunto uno dei due chitarristi, che è un po' più minimale, un pochino più punk di attitudine, infatti è quello messo peggio. È un live a una radio che si chiama We Let the Hell Come, tratto da comunque un disco che si chiama Scott Kelly and the Road Home, che è la band che suona con lui in quel disco. L'album si chiama The Forgiven Ghost in Me, uno dei miei pezzi preferiti. A seguito, subito dopo, l'altro chitarrista di Neurosis, che si chiama Steve Von Till, che è un po' più ricercato, ma per questo non vuol dire che è meglio o peggio, sono due stili un po' diversi. Il pezzo si chiama We All Fall, tratto da As the Crow Flies del 2000, che è il suo primo disco solista, e suona molto neo-folk, tra l'altro, che ha un modo di suonare un po' più minimale, anche se arricchito da altre strumentazioni, mentre Scott Kelly è un pochino più diretto. Quindi ascoltiamoceli entrambi e ci sentiamo tra qualche minuto dopo entrambi i pezzi. The blade of the reaper suspending the eye. In the reverence, all dues in the crossing, feed the soul, drowning in the death brings the rain to the river, and I walk from the shore waiting the stones in the river. Bring hell to the heart of those of us left in our shells. Watch her breathe life. Was denied. We will fall in the sun. In the depths of our run, we let the hell come. We let the hell come. Golden bough breaks, the cradle of civilization. When our island sinks in the sea, desire will lure us down. Ashes, ashes, we ascoltato prima Scott Kelly, ora Steve Von Teal, entrambi i chitarristi dei Neurosis che sono, e cantanti che sono un po' il marchio di un gruppo che ha gettato le basi per la musica che sarà ancora a venire per un bel po', purtroppo e per fortuna. Stiamo andando sempre più in una fase intimista del folk, e quindi in intimità ringrazio chi sta ancora ascoltando il programma, che è 8 Hertz, lo ringrazio tanto, li ringrazio tanto, così come ringrazio il prossimo autore che sto mettendo, che si chiama Mattia Coletti, che sperimenta un po' sul finger picking e sui metodi di chitarra appunto folk, così come la puntata, che si chiama appunto Il Dottore Dice Andrà Tutto Bene, e se lo dice lui, boh, ci possiamo fidare, ma io il dottore non l'ho sentito ancora. E tra l'altro, oltre a essere a fare dei bellissimi pezzi, è anche un grande fonico, e tra i tanti lavori che ha è comunque attualmente a giro con gli Ovo, che saluto, e saluto anche lui. Mi sa che è interista e dice che anch'io sono interista, ma però la prendo, non so come prenderla. Dicono male, perché qui siamo a Firenze, ma a me non me ne frega niente del calcio, quindi affibbiatemi tutte le squadre che vi pare. Mattia Coletti, il pezzo si chiama Wind Glass, è tratto da uno dei suoi dischi che si chiama The Land del 2012. Thank you. siamo arrivati alla fine con l'ultimo pezzo, un pezzo che ha a che fare anche col pezzo di Mattia Coletti, in quanto sono dei sapienti fautori del finger picking e altre tecniche astruse di chitarra che non so definire. E lui è Gleason McCall, che è il chitarrista storico dei Massimo Volume, che comunque ha anche una sua carriera solista, che fondamentalmente è chitarra acustica e poco altro, senza voce, tutto strumentale. Ho avuto il piacere sia di conoscerlo che di ascoltare il live, è molto molto intenso. Il pezzo si chiama Fantasmi e con questo insomma ci sta anche con tutto questo percorso di questa puntata che ha avuto a che fare con la tristezza, con i cambiamenti, con la morte, con un sacco di sentimenti funerei. E vi lascio con questo. Noi ci vediamo, ci sentiamo anzi giovedì prossimo sempre alle 9. Grazie a chi ci ha seguito, a presto. Lui, lo ripeto, è Gleason McCall, Fantasmi, tratto da L'Atlante della Polvere, l'ultimo suo disco del 2016. Ciao.